America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. And we'll hopefully be in a position to then start engaging in the hard bargaining that's necessary to get a deal done. Il presidente Barack Obama ha detto di essere ottimista, si sono fatti dei passi avanti importanti nel negoziato sul bilancio per la riduzione del disavanzo pubblico americano, restano, dice, ancora delle differenze profonde. Tanto vale aspettare a vedere cosa sarà questo accordo quando sarà raggiunto, ma con un messaggio che voglio lasciarvi: state tranquilli perché gli Stati Uniti d'America non falliranno il 2 agosto, quando scadrà la possibilità di aumentare il tetto sul debito. The vindication of the rights of sex crime victims is among the highest priorities of this office. Ma oggi vorrei parlarvi soprattutto di nuovo dell'affare Strauss-Kahn. Avete ascoltato la voce di Cyrus Vance, uno dei grandi personaggi shakespeariani emersi in questa straordinaria storia che ha visto l'ex direttore del Fondo Monetario Internazionale accusato di stupro sulla base della credibilità di una cameriera che sembrava inattaccabile, e poi improvvisamente un cambiamento di posizione da parte della procura di New York, dalla procura distrettuale di Manhattan, e la liberazione di Strauss-Kahn. Quello di cui vorrei parlarvi oggi però è la reazione che ho osservato sui giornali americani, nelle televisioni, sui giornali italiani nei confronti di questa storia e degli sviluppi dietro questa storia. Cioè, si continua a parlare di congiura, e voglio cominciare col citarvi una lettera che è uscita sul Corriere della Sera di ieri da parte di una ragazza di 18 anni che sostiene che secondo lei Strauss-Kahn è stato colpito perché stava cercando di risolvere alcuni problemi sul fronte della globalizzazione che erano stati generati da attività poco chiare da parte del Fondo Monetario e dalla Banca Mondiale. A questa lettera risponde, come sempre, il commentatore del Corriere della Sera, Sergio Romano, il quale prende le distanze dall'ipotesi della congiura, però apre un'altra problematica e dice che secondo lui la ragione di questa diversa reazione che poi c'è stata in America e in Francia nei confronti di questo sviluppo dipende da una serie di circostanze, e lui stesso in fondo si affida un po' alla dietrologia, perché a un certo punto scrive che secondo lui il New York Times ha scritto un lungo articolo per raccontare il personaggio della cameriera, ha mandato degli inviati in Africa, e scrive: quel lungo articolo non era soltanto giornalismo, era anche diretto ad evitare che i difensori di Strauss-Kahn, come accade spesso nei tribunali degli Stati Uniti, tentassero di screditare la vittima. Dunque l'implicazione è che il New York Times abbia agito con uno specifico obiettivo che era al di fuori del reportage giornalistico. La seconda motivazione che dà Sergio Romano riguarda la francofobia. Gli americani non sopportano la Francia e dunque hanno deciso di buttarsi contro Strauss-Kahn semplicemente per dare una lezione ai francesi. Ai microfoni di America 24 abbiamo Claudio Gatti, inviato del Sole 24 Ore qui negli Stati Uniti, lavoriamo insieme nello stesso ufficio. Claudio conosce bene le persone che lavorano in procura distrettuale e dunque approfitto della sua expertise per cercare di capire e di dipanare un po' questa matassa. È possibile che il New York Times decida di giocare d'anticipo su possibili attacchi che la difesa farà sulla cameriera e dunque scrive degli articoli per dare una mano alla procura distrettuale? Assolutamente no. Il New York Times mai e poi mai si metterebbe al servizio di alcuna procura. Quel reportage semmai dimostrava quanto difficile è stato riuscire a definire la credibilità di questa persona, nel senso che tre giornalisti sono andati in Africa e hanno scritto un lungo articolo da cui risultava che questa donna era una devota musulmana assolutamente al di sopra di ogni sospetto. Beh, anche perché questo dialetto della Guinea sembra particolarmente impenetrabile, cioè loro stessi ci hanno messo una vita, se non sbaglio, no, Claudio, a decifrare e a tradurre quella famosa conversazione, quella conversazione chiave che la cameriera, che questa donna ha avuto col suo amante in carcere. È possibile dunque che ci siano stati questi problemi, perché qualche problema c'è stato per il New York Times comunque. Sì, beh, il vero problema è che hanno anche loro basato la loro testimonianza su quello che avevano raccolto superficialmente, non erano stati in grado di trovare i conti in banca con i depositi ingiustificati o sentire la registrazione di quella telefonata con il fidanzato in carcere. Questo, menzionare la francofobia come uno degli elementi chiave di questa cosa, secondo te è giustificabile di nuovo? La francofobia è sicuramente un fenomeno che esiste in America, come ha dimostrato il periodo della seconda guerra del Golfo, ma riguarda il cuore dell'America, l'America texana, quella rurale. New York e Manhattan in particolare probabilmente è la zona più francofila dell'intero paese. Su questo argomento è intervenuta Sylvie Kaufman e ha scritto un editoriale proprio sul New York Times per dare un po' la sua visione dal punto di vista francese e da Parigi di quella che è la situazione, quello che è il suo punto di vista. Questa non è soltanto un'altra litigata franco-americana. Washington e Parigi si sono tenuti saggiamente fuori dall'affare Strauss-Kahn, che è gestito dal sistema legale dello Stato di New York. Forse un piccolo errore, perché in realtà è la città di New York, ma comunque glielo perdoniamo. E poi aggiunge: il trattamento politico e dei media di Dominique Strauss-Kahn nei due paesi sottolinea invece differenze profonde in almeno quattro aree: la giustizia, le relazioni fra i due sessi, la trasparenza e i soldi. Ecco, ti trovi d'accordo con lei? Intanto, scusa, premessa, Washington e Parigi sono davvero stati fuori, cioè le capitali, i governi centrali, da questo scandalo? Perché qualcuno ha detto anche che invece erano coinvolti. Sono certo che si siano tenuti fuori, anche perché era un caso gestito dalla magistratura di Manhattan e non quella federale. Per quello che riguarda i commenti, condivido le osservazioni della collega francese, anche perché ci sono sicuramente delle grosse differenze filosofiche e politiche. Non c'è una giustizia contro i francesi, c'è una giustizia aggressiva che porta a far vedere ammanettato anche una figura di peso quale Strauss-Kahn. Ma era successo 2 anni fa, quando è stato arrestato un famoso giocatore della squadra di football americano, i New York Giants, che è stato mostrato ammanettato davanti ai giornalisti. Una cosa che sarebbe impensabile in Italia. Potete immaginare se i poliziotti romani potrebbero mai far vedere Totti in manette. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Il 27 settembre arriva nei negozi In Heaven, in cielo, l'album di debutto delle Twin Sister. Per promuoverlo, queste 5 ragazze di Long Island, tutte ventenni, saranno in tour per gli Stati Uniti fino a ottobre. In anteprima delle Twin Sisters, Bad Street. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going! America 24.